Davvero noi stiamo facendo il massimo, nel senso che anche per accogliere le famiglie che sono in situazioni di emergenza abitativa, in quella che è una crisi abitativa strutturale che sta attraversando la nostra città come tante altre, abbiamo 170 appartamenti di transizione abitativa, a cui ne stiamo aggiungendo altri 30 con una delibera di quest'estate. Li stiamo ristrutturando in questi mesi per avere quindi un pacchetto di 200 alloggi che sono riservati proprio a questo tipo di situazioni, no? Famiglie che hanno subito uno sfratto per morosità incolpevole o per finita locazione, come questa. Stanno aumentando sempre di più gli sfratti per finita locazione, no? Quindi famiglie che hanno lavori, pagano l'affitto, ma si trovano oggetto di decisioni di speculazione edilizia, come in questo caso in cui appunto due civici interi vengono riconvertiti a affitti molto più alti oppure case vacanze, e quindi situazioni di emergenza a cui il comune si ritrova a dover dare una soluzione chiaramente in poche ore. In questo momento noi abbiamo tutti i nostri appartamenti di transizione abitativa pieni, ne stiamo aggiungendo ulteriori, ma abbiamo anche una spesa annuale di 3,5 milioni di euro di costi di albergo per le situazioni in cui appunto, come in questo caso, tutte le nostre strutture di emergenza sono piene e quindi abbiamo bisogno di una collocazione d'emergenza per un nucleo in albergo. Stiamo portando avanti un piano per l'abitare con risorse straordinarie, impareggiabili negli ultimi decenni in città. Siamo sul cronoprogramma per arrivare allo sfitto zero nel sistema di edilizia residenziale pubblica, un risultato mai raggiunto nella nostra città, ma che sarebbe un unicum in Italia. Abbiamo bisogno però di risorse nazionali. Non è possibile che le città si trovino a fronteggiare da sole un'emergenza che è diventata crisi strutturale, ma intendo emergenza quando sono proprio casi come questo tipo, in cui davvero dalla mattina alla sera hai una famiglia che devi collocare, a cui devi trovare una soluzione, senza che ci siano fondi invece strutturali per la casa. Sempre in un comunicato ieri sottolineato che non può essere il mercato, come dire, l'unico soggetto a come dire, intervenire sul tema della casa. Sì, anche perché appunto, come stiamo vedendo, sta aumentando la logica distorsiva del mercato, e quindi l'affitto breve, che non è più come era partito, no, in integrazione del reddito per una persona che affitta saltuariamente una casa o una stanza, ma ci sono decine di immobili sulle piattaforme per appartamenti brevi turistici. Noi vorremmo chiedere, che invece abbiamo chiesto al governo più volte, ci fosse un limite massimo, un appartamento per proprietario, però questo non ci è concesso. Per ora procediamo con le leve urbanistiche, che chiaramente sono meno restrittive di quello che si potrebbe fare con una legge nazionale. Fortunatamente stiamo interloquendo con la regione Emilia-Romagna per provare a dare una regolamentazione ulteriore, ma quello è un fenomeno che andrebbe governato in maniera molto più forte, come fanno tante città in tutto il mondo, e in questo momento non è possibile farlo. In più c'è il tema dello sfitto in città. Noi stiamo davvero affrontando tutto lo sfitto pubblico, e in più con la Fondazione Abitare mettiamo incentivi per rimettere in circolo lo sfitto privato, che comunque sono 15.000 appartamenti in città, a patto che venga affittato a canone concordato, no? Per aiutarci a calmierare il mercato. Quindi tutte le risorse che abbiamo stanno andando verso lo ristrutturare lo sfitto pubblico, incentivare la messa in locazione di sfitto privato e realizzazione di nuova edilizia sociale, come faremo nei prossimi anni anche nuovi appartamenti o l'8G che è appena stato assegnato quest'estate, 33 appartamenti al Navile, 121 saranno la prossima estate messi a bando. Davvero stiamo continuando ad affrontare la casa in ogni suo aspetto, ma è uno sforzo immane, sono veramente sforzi che tutte le città ad alta tensione abitativa stanno facendo davanti a un governo completamente silente, che continua a non ricevere gli assessori alla casa, più di 40 che hanno fatto 5 proposte per un piano casa nazionale, e a non finanziare un piano casa nazionale. Contiamo che le risorse che hanno annunciato, 600 milioni su tutto il paese, sono briciole. Pensiamo al solo comune di Bologna, investiremo 200 milioni di euro solo sulla nostra città, no? Capiamo bene come davvero sia qualcosa che non si possa definire piano casa, ma solo una presa in giro. Proprio su questo volevo farti un'ultima domanda: il contesto generale, poi anche quello di un taglio ai trasferimenti agli enti locali anche su altri capitoli, quindi insomma poi è difficile destinare risorse che servirebbero per coprire tutto. Esattamente così, peraltro con una spesa di welfare che è sempre in aumento sul nostro territorio. Chiaramente le fragilità sono aumentate, noi abbiamo un aumento di spesa anche solo per la transizione abitativa o l'emergenza abitativa, che negli ultimi 3 anni è aumentato del 25%, le prese in carico da parte degli assistenti sociali stanno aumentando aumentando, ma le risorse non sono illimitate, quindi il problema è anche, come nella situazione di ieri, avere tutte le risorse di transizione abitativa piene e doversi trovare ad offrire a una famiglia, in un caso un albergo a Bologna, nell'altro caso erano tutti pieni, trovavamo solo un albergo a Castel San Pietro. E quando tu hai una famiglia con un lavoratore magari dell'Interporto che si sveglia alle 3 del mattino per andare a fare il turno lì, chiaramente è una collocazione d'emergenza in albergo che, pur essendo a spese del comune, per lui è insostenibile, perché deve continuare a mantenere quell'unico reddito. Sono situazioni paradossali, situazioni emblematiche della crisi abitativa che va davvero affrontata a tutti i livelli.